Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Liberato l'imprenditore Andrea Calevo, era stato rapito lo scorso 17 dicembre. Questa sera è il discorso di fine anno del presidente Napolitano. Berlusconi, indagheremo anche sul ruolo di Napolitano nella caduta del mio governo. Primarie Bersani, felice per giovani e per donne. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. È stato liberato l'imprenditore Andrea Calevo, era stato rapito il 17 dicembre scorso dopo una rapina nella sua villa Lerici in provincia di La Spezia. Siamo in diretta con Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno Daniele, la notizia di un quarto d'ora fa: Andrea Calevo è in buone condizioni, il blitz è scattato da parte di carabinieri e polizia ed è stato il risultato di una lunga indagine che già prima di Natale aveva imboccato la pista giusta con l'individuazione della banda responsabile del sequestro. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di una gang composta da italiani e stranieri dell'est. Tra quello che posso aggiungere un particolare inedito, contrariamente a quanto detto ufficialmente nel corso di questi giorni dagli inquirenti, alla famiglia di Andrea Calevo prima di Natale era giunta una richiesta di riscatto, 8 milioni di euro. Il contatto era venuto con una lettera indirizzata alla villa di Lerici, dove la sera del 17 dicembre il giovane imprenditore spezzino era stato sequestrato sotto gli occhi della madre, legata e rapinata. In azione era entrato un comando di 3 uomini. Dopo essere riuscita a liberarsi, la donna aveva detto ai carabinieri che molto probabilmente si trattava di 3 stranieri dell'est europeo. Per il momento è tutto, ribadisco, Andrea Calevo è stato liberato nel corso di un blitz congiunto di carabinieri e polizia e sta bene. Grazie. Intanto pochi secondi fa una nota della polizia dice che Calevo è stato liberato esattamente a Sarzana, in provincia di La Spezia, al termine di un'operazione di polizia giudiziaria, risultato di una complessa e articolata attività svolta da polizia e da all'arma dei carabinieri coordinati dalla procura distrettuale antimafia di Genova. E ora il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì Daniele, secondo le prime indiscrezioni il capo dello Stato Giorgio Napolitano parlerà di un anno particolarmente difficile per il paese colpito dalla crisi. Intanto il premier Mario Monti è di ritorno a Roma, infatti ha appena concluso la sua vacanza a Venezia ed è salito a bordo di un motoscafo della polizia per raggiungere l'aeroporto e ritornare a Roma. Mario Monti, abbiamo detto, sta ritornando a Roma, ma risponde subito no a Pierluigi Bersani, perché il professore replica stizzito al segretario PD che aveva chiesto da che parte stava. Non devo posizionarmi, la nostra agenda è chiara, spiega Monti. Io mi sento progressista, dunque non voglio essere riconosciuto come moderato o centrista o il catalizzatore di un progetto di ricostruzione della DC. Nel centrodestra invece Silvio Berlusconi annuncia, come avete detto già voi da studio, che in caso di vittoria chiederà una commissione d'inchiesta non solo sulla nascita del governo tecnico ma sul ruolo avuto dal Presidente della Repubblica in quel passaggio politico, e accusa Monti di essere diventato il vice di Fini e Casini. Il Cavaliere poi sosterrà Francesco Storace nel Lazio, mentre rilancia sull'alleanza con il Carroccio dopo il no di Roberto Maroni alla sua candidatura come premier. Soddisfazione invece nel PD per come sono andate le primarie dei parlamentari. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e proprio sentiamo nel servizio di Raffaella Calanda cosa ha detto esattamente il leader del PDL, Silvio Berlusconi. Tira in ballo pure il Colle, manda nuovi ultimatum alla Lega e lancia Francesco Storace per un ritorno alla Regione Lazio. Sceglie due radio Silvio Berlusconi per il botto mediatico di fine anno e riparte dalla commissione d'inchiesta sulla caduta del suo governo, che dovrà fare luce, secondo l'ex premier, anche sul ruolo del Quirinale. Io lascerò ad una commissione l'indagine su quel che successe allora. Certamente ci fu un uso criminale dello spread. Io chiedo una commissione di indagine perché sono stati tanti gli interventi che hanno concorso in quella direzione. Primo tra tutti il tradimento di Fini. Tra gli AD il Cavaliere non vorrebbe inserire anche quello del Carroccio, e per questo, nonostante il fallimento dell'ultimo vertice, agli ex alleati manda a dire che lui sarà il leader della commissione, poi specifica il premier si vedrà. Per i leghisti dunque una porta lasciata un po' aperta, ma anche il ricatto su Lombardia e le altre altre regioni del nord nel caso corressero da soli. Spento il microfono di Radio Capital, si accende per Berlusconi quello di Teleradio Stereo 2 e agli ascoltatori del Lazio rilancia Francesco Storace nella corsa alla regione. È stato perseguitato dalla giustizia, dice, richiamando le inchieste che portarono l'ex ministro della salute, già governatore dal 2000 al 2005, alle dimissioni. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Il punto di Stefano Folli. La lunga avventura politica di Silvio Berlusconi rischia di finire dove era cominciata, in Lombardia, perché ora con il rifiuto di Maroni di ricostituire la vecchia alleanza fra Lega e PDL si nota in modo drammatico quanto sia totale l'isolamento del vecchio leader. Non c'è più l'appoggio del mondo cattolico nelle sue varie espressioni e adesso il Carroccio preferisce salvare la propria identità, cioè l'anima politica, piuttosto che tentare una difficile conquista della regione, resa comunque molto ardua dalla presenza in campo di Albertini, costola ribelle del centrodestra. Maroni guarda al futuro, a un leghismo rigenerato, e Berlusconi è il passato. Potrebbe ancora accettarlo se questi rinunciasse a candidarsi come premier in quella che in effetti è un'estrema e davvero singolare corsa, ma Berlusconi naturalmente non accetta veti ed è sempre più solo, condannato ad assumere posizioni via via più radicali e aspre contro tutto e tutti, ora anche contro l'antico alleato. Una vicenda il cui epilogo sembra già scritto. È un successo di giovani e donne, dice Pierluigi Bersani su Twitter, la sua soddisfazione per l'esito delle primarie dei parlamentari del PD. Oltre 1 milione al voto, tra i big passano Finocchiaro, Boccia e Bindi, entrano volti nuovi però in diverse regioni come Enzo Lattuca da Cesena, il più giovane, compirà 25 anni 2 settimane prima del voto. Tra i big si affermano Anna Finocchiaro e Rosi Bindi, dicevamo, dall'oro olimpico al Parlamento per Josefa Idem in Lombardia. La più votata è stata una giovane precaria, Miriam Cominelli, sentiamola. Credo che con queste primarie ci sia stata data la possibilità alla società civile di dimostrare quanto in realtà sia un po' più avanti rispetto alla politica, alla Lombardia parliamo, e ha fatto vedere che vuole, che è pronta ad avere qualcuno di nuovo che è in grado di farlo uscire dalla crisi, di cambiare le cose veramente. Cos'è che secondo lei l'ha portata a prevalere anche su nomi noti, la forte campagna sul web? Sì, forte campagna sul web, anche se in realtà comunque i miei sono contatti circoscritti. Non so di preciso che cosa sia stato a farmi raggiungere un numero così alto di voti. Forse a me piace pensare che oltre al fatto di essere giovane, di essere donna, si sia ascoltato quello che avevo da dire, le tematiche di cui ho parlato durante la breve campagna elettorale. In quale è stato il suo tema centrale soprattutto? Innanzitutto le donne, i giovani. Sono 170 le novità in arrivo con il nuovo anno, rincari ma anche sconti. Autostrade più care, multe più elevate, tasse più alte sui conti deposito, ma il nuovo anno porterà anche qualche buona notizia, a partire da un calo delle tariffe elettriche. Dall'auto alla sanità sono molti i provvedimenti che entrano in vigore domani. Per effetto del codice della strada, ad esempio, aumenteranno del 5-7% le infrazioni stradali. Un'altra cattiva notizia per gli automobilisti è il fatto che saliranno in media del 2,8% le tariffe autostradali. Da gennaio aumenteranno anche le tariffe del gas, mentre scenderanno quelle della luce. Per il gas l'aumento è dell'1,7 pari a 22 euro annuali, mentre per la luce è prevista una riduzione dell'1,4 con un risparmio di 7 euro su base annua. Alcune novità arrivano poi dalla pura e semplice entrata in vigore di provvedimenti presi dal dimissionario governo Monti, a partire dalle pensioni, le cui nuove regole diventeranno realtà proprio domani. Entra nel vivo anche la riforma del lavoro con il debutto dell'ASPI e gli sgravi per chi assume determinate categorie. Novità anche per i pagamenti. Negli apparati pubblici pagare oltre i 60 giorni costerà di più. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Manca ancora un accordo al Congresso americano per evitare quello che ormai è conosciuto come fiscal cliff. Obama sta accusando i repubblicani di intransigenza, ritenendoli responsabili della crisi provocata appunto da questo mancato accordo. Molti americani si stanno svegliando in queste ore con un pensiero. Non il programma della notte di San Silvestro, ma cosa succederà nei prossimi giorni alle loro tasche e ai mercati finanziari nel caso che repubblicani e democratici non riescano a mettersi d'accordo per evitare quel mix micidiale tra tagli alla spesa federale e aumento delle tasse che quasi certamente porterebbe il paese in una nuova recessione. Il fiscal cliff è dietro l'angolo, mancano poche ore alla mezzanotte americana, alle 6 di domani mattina in Italia. Oggi alle 17 ora italiana ci sarà un nuovo e forse ultimo incontro fra i due partiti per tentare di arrivare ad un accordo dell'ultimo minuto accettabile per il Senato e per la Camera dei rappresentanti dominata dai repubblicani, quei repubblicani verso cui Obama punta il dito. Se non ci sarà un accordo, Obama presenterà al Congresso il 4 gennaio una proposta di legge per la riduzione delle tasse per le famiglie della classe media. Quello che serve per mitigare gli eventuali effetti del fiscal cliff. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca, nuovo agguato di Camorra a Napoli. Un morto e un ferito è il bilancio di un agguato di stampo camorristico avvenuto nella serata di ieri a Napoli in vico San Vincenzo al Rione Sanità. La vittima si chiamava Francesco Bara, aveva 35 anni ed era considerato dagli inquirenti il capozona del clan Lorusso nel popoloso quartiere partenopeo. L'uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale Cardarelli ed è deceduto nel corso della notte in seguito alle ferite d'arma da fuoco riportate. Non è in pericolo di vita invece il 28enne Ciro Staterini, incensurato ma considerato suo guardaspalle. Anche questa l'agguato potrebbe essere collegato alla faida di Scampia, la guerra tra clan in atto alla periferia nord di Napoli. È la pista principale seguita dai carabinieri che hanno ricostruito la dinamica del delitto. Bara stava camminando a fianco del suo amico quando è stato avvicinato dai sicari. È stato colpito da un proiettile alla testa, mentre Staterini è stato ferito di striscio al volto. Sul luogo dell'agguato sono stati rinvenuti bossoli esplosi da due diverse pistole. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E ci sarebbero tre fermi, questa era la notizia con cui abbiamo aperto questo giornale radio in relazione al sequestro di Andrea Calevo. Lo dicono pochi secondi fa fonti investigative, i tre sono per essere portati alla questura della Spezia, quindi tre fermi per il sequestro di Andrea Calevo. Ultimo giorno in edicola per il quotidiano Pubblico, nato poco più di tre mesi fa. Sentiamo il direttore Luca Telese. Oggi c'è un'assemblea di soci che presumibilmente deciderà la messa in liquidazione della società, perché o ricapitalizza o mette in liquidazione la società. Ovviamente è una decisione dolorosa per tutti noi. Noi avevamo un capitale sociale di 748.000 euro. Un grande fenomeno editoriale come Il Fatto è nato con un capitale inferiore. Questo business plan si reggeva su un modello di equilibrio, era un modello dichiarato, cioè diceva: se arriveremo a 8.200 copie il giornale starà in piedi sulle sue gambe, se entro tre mesi non arriva a questo livello di equilibrio purtroppo dovrà chiudere. Alcuni colleghi dicono: ma ci sono giornali che vendono molto meno di noi. È vero, però ci sono dei giornali che sono finanziati in altro modo. Se c'è un editore che ti ripiana metà delle perdite non hai un problema, se c'è un partito che ti finanzia metà delle perdite non hai un problema. Gianni Morandi festeggia l'ultimo dell'anno tornando a suonare dal vivo. Questa sera è al Gran Teatro Geo di Padova, il primo live dopo 4 anni. Sentiamo Gianni Morandi al microfono di Marta Cagnola. In questi anni ho fatto altre cose, ho girato un film, ho fatto il conduttore al Festival di Sanremo, forse il mio mestiere principale, che è quello di cantante, l'avevo, non dico abbandonato, ma insomma per un po' accantonato, e mi farebbe piacere ripartire. Questa è un'occasione anche per pensare poi a un eventuale tournée nell'anno prossimo, magari con nuove canzoni, con un nuovo disco. Ecco. Intanto però lei ha promesso che condividerà la scaletta con il pubblico. Certamente, io ho inciso più di 500 canzoni e quindi magari qualcuno me la dimentico o non canto da tanto tempo. Se qualcuno me la chiede io prendo in mano la chitarra e magari la improvviso. Magari molte parole non me le ricordo tutte, perché ricordarsi le parole di 500 canzoni non è facile. Nel 2013 invece cosa desidera? Cercare di arrivarci dimenticando quello che è successo nel 2012, che insomma, a parte la perdita di amici come Lucio, il terremoto dell'Emilia, la crisi, sperando che nel 2013 sia tutto più un pochino più leggero, ecco. Questo è il quadro sull'Italia e il mondo secondo Radio 24 alle 13.15. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, le prossime notizie alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.